Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Jar Alan Parson. Alan Parson. Jar. Perché non riprendi anche loro nelle tue melodie? Un saluto di cuore da Fabio 74. Buon voyage. Non mollare mai il sogno. Gigi D'Agostino. La radio a colori. Vorrei salutare mia figlia Asia di Porcari. Ti voglio bene, piccola. Peppe da Lucca. Arrivano tantissimi messaggi da genitori e figli, da figli e genitori, da genitori che scrivono ai figli, da figli che scrivono ai genitori. E questa cosa è meravigliosa. Il cammino è una grande famiglia. Che meraviglia. Dedico Please Don't Cry a Valentino per il sogno che stiamo inseguendo, camminando insieme ogni giorno. Non mollare, ce la faremo. Martina da Pistoia. Ti amo, sono per tutto, è tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Volevo che Gigi mi facesse gli auguri per il mio compleanno, che ho fatto il 2 dicembre, e che mi dedicasse Reparto pelle d'oca. Sì. Luigi da Torino. Face forever.

Volevo dire al mio amore Marta che i 5 mesi che mancano al nostro matrimonio voleranno. Gigi, dedicaci un pezzo di Mediterranean Progressive. Marco da Perugia. Si vola a tempo attraverso le armonie. Il cammino di Gigi D'Agostino. Che cos'è Torino senza Gigi D'Agostino? Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, alle ore 14, Gigi D'Agostino suona in Piemonte, discoteca La Gar, Torino. Così e se vi parlo. Domenica pomeriggio ci vediamo alla gara. Sono Anais da Aosta. Volevo dire al mio Andrea che lo amo tanto. Sono Fabri da San Paolo di Civitate. Vorrei un brano da brivido. Lo dedico alle persone più care della mia vita. Mia moglie Rachele e il mio piccolo Ubi. Vi amo. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi, volevo dire a Stefano 2 parole che non sono ancora riuscita a dirgli. E volevo che tu fossi il mio tramite. Stefano, io ti amo. Elvira. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Vorrei dire a Gaetana che è qui con me. Ga, me lo dai un bacio? Roby da Asti. Il 6 dicembre è nata Emma. Tantissimi auguri per i suoi 2 anni. Da Silvia e Linda. Gigi, anche oggi cammino a fianco a te. Non importa se non lo leggerai, basta che tu sappia che io ci sono. Un grande grazie per quello che mi dai e un saluto anche da parte di Hulk, che con me condivide questo grande viaggio. Baci da Giulia di Udine. We'll be right back.

Gabriele da Valenza. Volete scrivermi? 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Chi non ascolta Gigi D'Agostino? Al pisellino. Davvero piccolino. È vero, è vero. Neco da Milano. Questo programa musical mental, ole, me gusta mucho macho, e che cacho. Sono Cecilia da Roma, potresti mettere Carion, che piace tanto a mio fratello Giulio, grazie. Il cammino di Gigi D'Agostino, attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Sono Donatella di Bra, volevo dire a mio marito Beppe che lo amo da morire. Sono Vicio M da Canicattì, Agrigento. Auguri a mio papà. Anche se a volte sei testardo, resti sempre un grande. Ti voglio bene, papà. Un augurio a mia madre che si sposa. Andrea di Rivoli. Mariti che scrivono alle mogli, mogli che scrivono ai mariti, figli che scrivono ai padri, madri che scrivono. È bellissimo, è meraviglioso. No, va bene, quando spiego mica. È il cammino del Gigi D'Agostino. Sì. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulla mano. Gigi D'Agostino ringrazia con una pennellata e un colpo di martello Marco e Lu. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mano, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani, per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani, per Gigi D'Agostino, sì. Aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani, per Gigi D'Agostino, D'Agostino. Aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria, per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Fermamosi un momento. L'8 e il 9 dicembre Gigi D'Agostino suona in Austria. Venerdì 8 dicembre discoteca Starlight, Walls Salzburg. Sabato 9 dicembre discoteca Nashit, Innsbruck, Austria. Se riparte maestro, corte Adro, Erburattino. Gigi D'Agostino. Volevo fare gli auguri di buon compleanno a Diego e regalargli qualcosa che non può né toccare né vedere, ma che può sentire. Gli regalo toccando le nuvole. Gigi, se alzi la mano al cielo anche tu, lui potrà sentirti vicino. Leo da Ostra Vetere, ancora. Gigi, sono Elia. Quando ti ascolto mi trasmetti una forte emozione. Per favore, è la sesta volta che ti mando un messaggio. Dedicami una canzone. Sì. Gigi? Sono Eurisea. Non leggi mai i miei messaggi. Io qua c'ho da suonare anche, non è che posso stare qui tutto il giorno a rigare i conchiglioni. Mario, ti amo tanto. Voglio stare sempre con te. Dedico Elisir ad Elena, cioè te, e cioè io. Te nel senso io, te, io. Muovete. Perché sei una persona fantastica e pura. Roby B. Grazie Roby. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Sono Stefano da Torino. Gigi, fammi ascoltare Elisir. Certo. Torino, senza Gigi D'Agostino. Domenica pomeriggio, 10 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Piemonte. Discoteca La Gare, Torino. Così, e se vi parlo. Domenica pomeriggio, ci vediamo alla gara. La vita offre dubbi, errori e ostacoli da superare, ma spesso anche gioia e armonia. Grazie a Vito e a Danto, che mi hanno fatto conoscere la persona che mi ha fatto capire che cos'è la vera felicità in così pochi mesi. Gigi, vorrei dedicare Per me amore a Lorenzo, la stella che sta illuminando la mia esistenza. Vale da Reggio Calabria. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci, sentire quel pianto e una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie.

Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ciao Gigi, volevo dedicare Luce a mio figlio Davide. Va matto per la tua musica. È venuto a vederti a Bizzarrone ed è tornato a casa tardissimo. Ah, è cazzino. Saluti da Como. Una salutata generale. Ciao Gigi, sono Beba da Chiavari, Genova. Puoi dedicarmi Luce che mi fa impazzire? Grazie. Ciò che penso è molto intenso. Al nuovo buio io sono propenso. Perché è dal buio che sono nato. E grazie a lui ho camminato. Si riproduce, grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale, ma è reale. Luce che si riproduce, grazie a quel buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale, ma è reale. Voglio dedicare Luce a Mary, il mio amore tamarro. Tony da Loge. Per eccellenza, con la tua musica passa tutta la violenza. Suonami lo sbaglio. È ciò che mi serve per andare avanti. Bix. Volevo dedicare lo sbaglio alla donna della mia vita, Cassi. Spero che questa canzone ti faccia capire. Samuele di Ponte a Cappiano, Firenze. Sono Cri dalla provincia di Torino. Mi fate ascoltare lo sbaglio e ricordate a Ricky che lui per me non è mai stato uno sbaglio. Ok. Sono Natale da Bologna. Voglio dedicare a mia cugina Ale lo sbaglio e dirle che le voglio tanto bene. Gigi, metti lo sbaglio per favore, perché voglio dedicarla al mio Dani, da Laura. Un bacio. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, da forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. Se lo fa, se vuol che fa, chi lo fa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie, chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie, chi lo sa, quando è che è meglio, sai per capire cosa non sbaglio, nessuno sa qual è la soglia per poter dire, mi amo su un taglio. Sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Vogliamo dedicare lo sbaglio a nostro fratello Gio 147, Gigi e Stefano. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mio amore Mary, dedicandole lo sbaglio. Amore, averti conosciuta non è mai stato uno sbaglio. Ti amo tanto. Antonio da Cagliari. Gigi, volevo chiederti se potevi farmi ascoltare lo sbaglio, la canzone del mio angelo volato in cielo il 23 settembre. Cammino di Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Giovedì 7 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22, lascia che sia. Forco, il mio migliore amico, ci sarò sempre per te. Sempre la colonna sonora sarà la melodia del maestro, come da anni succede. Andrea da Verzuolo. Potresti farmi gli auguri? Certo. Sabato faccio 25 anni. Patti da Pavia. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.